L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati da Laura Bettini, una nuova puntata dell'Altro Pianeta. L'acqua di questi giorni, la pioggia, magari ha messo a dura prova il vostro desiderio di ridurre le emissioni, quindi il vostro impegno per ridurre le emissioni. Magari avete rinunciato alla bicicletta o avete rinunciato ad andare a piedi. Beh, potreste rimettervi la coscienza a posto, per così dire, con il carpooling, cioè prendendo un passaggio o dando un passaggio in auto a qualcuno che ha la vostra stessa destinazione. Nelle grandi città specialmente ci sono tanti pendolari che potrebbero usare questo sistema per risparmiare emissioni ma anche denaro. Abbiamo provato come funziona BringMe. È una community dedicata alla condivisione dell'auto. C'è un sito internet sul quale è necessario registrarsi. Il sito è bring-me, scritto in inglese, quindi me.it, bringme.it. Si cercano lì le persone che potrebbero condividere con noi il viaggio. Si può addirittura scegliere se viaggiare solo con donne, ovviamente si tratta di donne che scelgono di viaggiare con donne, e poi c'è un'app da scaricare sul telefonino per calcolare il risparmio di CO2. Se vi interessa anche la parte ecologista della questione, non solo quella del risparmio, che sarà evidente anche senza l'app. L'app è un po' macchinosa, l'abbiamo detto anche a coloro che gestiscono questa piattaforma, ci vuole un po' di pratica per sfruttarla, ma funziona. Ebbene, al termine della prova che abbiamo fatto con BringMe, abbiamo voluto incontrare il fondatore, l'ideatore di questo sito, che si chiama Gerard Albertengo. Sentiamo che cosa ci ha raccontato nell'intervista. Siamo una startup incubata al Politecnico di Torino, all'I3P, e nel 2011 abbiamo lanciato un portale web per fare carpooling. E nel fine 2012 abbiamo avviato la sperimentazione di quest'app, che consente di verificare la compresenza in auto delle persone da quando partono a quando arrivano e quindi certificare il carpooling. Carino, è passato il motorino per certificare che siamo per strada, perché l'abbiamo appena provata. Ci siamo registrati sulla app, poi abbiamo fatto il nostro carpooling e abbiamo potuto ottenere che cosa? Cosa si vede quando alla fine del viaggio uno clicca su viaggio concluso? Alla fine si vede un certificato, un vero e proprio certificato, con il numero di passeggeri a bordo, quindi quante persone erano effettivamente presenti su quell'auto alla partenza e all'arrivo, quanti chilometri abbiamo percorso e quindi quanta CO2 si presume abbiamo risparmiato. Questo ovviamente comporta che chi ha fatto il viaggio sa quanto bene ha fatto quel giorno, ha trovato delle persone con cui condividere le spese di viaggio, quindi può ripetere questa esperienza, pensiamo ai pendolari, anche tutti i giorni, però diciamo dà la possibilità anche in futuro di sviluppare alcune applicazioni interessanti per i comuni e per le aziende di cui tu prima parlavi in auto. Certo, questa applicazione è utilizzabile sia da aziende private che quindi vogliono promuovere il carpooling per essere green, sia dalle amministrazioni pubbliche che potrebbero utilizzare questo strumento per concedere dei vantaggi a chi raggiunge magari la prima periferia della città in auto in quattro e poi utilizzi i mezzi pubblici per girare all'interno della città, in un'ottica di mobilità sostenibile. Quindi l'applicazione ci dà lo strumento per premiare queste persone, cosa che prima non c'era. L'applicazione, essendo poi appunto su internet, può anche dare la possibilità, pensiamo a una città come Milano che ha un'area ristretta alle auto, di verificare, non so, quante persone c'erano in quell'auto e quindi diciamo di premiarle in un certo senso, non facendo pagare l'accesso magari a un centro storico. Esatto, Milano potrebbe sfruttarla in questo modo. Chi entra all'interno della zona di Milano dove è necessario avere il pass, l'applicazione potrebbe certificare che sia in carpooling e inviare i dati all'amministrazione che gestisce il sistema e quindi dire queste persone non pagano il pass poiché sono in carpooling, sono in quattro in auto. Mi pare importante dire, visto che abbiamo parlato di Milano, che in realtà questa app è disponibile per tutti gli italiani, quindi che non è che solo chi abita a Milano o a Torino, dove c'è il Politecnico di Torino, può usufruire di questi vantaggi. Certamente no, sia BringMe il portale sia l'applicazione è disponibile in tutta Italia e i viaggi e le persone che cercano passaggi in auto sono presenti in tutta Italia. Sono oltre 40.000 persone ogni mese che cercano passaggi in auto e ci sono 12.000 viaggi in partenza nelle prossime 4 settimane. 12.000? 12.000, adesso forse da ieri sono 13.780 il numero esatto. Quindi presa un po' di mestichezza poi con l'app, perché comunque bisogna imparare a utilizzarla, si arriva a questi numeri. C'è una possibilità interessante che mi sembra giusto sottolineare anche per le donne che magari sono un po' meno portate a viaggiare con degli sconosciuti. Voi avete previsto questa difficoltà e come la risolvete? Certo, allora no, il pubblico femminile che adesso rappresenta il 40% del pubblico di Brimi, questo è dovuto al fatto che noi consentiamo alle donne di certificarsi, cioè inviare a noi un documento di identità, noi verifichiamo che l'utente iscritto sia realmente una donna, come compare sul documento di identità, e in quel caso, ottenendo il bonus di utente certificato, l'utente può pubblicare un viaggio per sole donne, accettabile quindi da una sola donna a sua volta certificata. In questo modo si ha la certezza che l'utente che concorda con me il viaggio sia effettivamente una donna. E quindi insomma si parte con un pochino più di sicurezza, diciamo, con un po' più di fiducia nel prossimo, che poi però diciamo è un risvolto anche socialmente importante, quello di poter trovare nei viaggi di carpooling, non so, nuovi amici, persone che condividono con te lo stesso viaggio tutti i giorni. Certo, sia tutti i giorni, quindi trovare nuovi compagni per andare al lavoro e fare due chiacchiere magari andando a lavorare o rientrando la sera, ancora meglio se ci va magari a un evento, pensiamo a un concerto, si trovano dei fan dello stesso cantante piuttosto che della stessa squadra di calcio e si viaggia in compagnia anziché da soli. In conclusione, voi nascete all'interno del Politecnico di Torino, dicevi. Quanto tempo fa siete partiti con questa app? Come è stato un po' il vostro percorso come startup? Quindi andando più su un aspetto sole 24 ore, diciamo. Ok, allora no, io innanzitutto col Politecnico, io sono lavorato in economia, avevo ideato il portale di carpooling ad uso quasi privato, poi abbiamo visto che in brevissimo tempo abbiamo raggiunto oltre 500 iscritti nei primi 2 mesi. A questo punto allora mi sono dedicato unicamente a Brimi. La piattaforma è cresciuta notevolmente durante tutto il 2012. A fine 2012 abbiamo ideato il progetto di questa applicazione innovativa. Ci siamo candidati al Politecnico di Torino per entrare all'incubatore dell'I3P, che accetta imprese innovative e le supporta. Ci hanno accettato e ancora oggi siamo una startup dell'I3P del Politecnico di Torino. Quanti siete? Le startup. Voi come Brimi? Noi come Brimi siamo 3 persone fisse, più abbiamo gli sviluppatori esterni e l'esperto marketing che è un consulente esterno. Ma è un'attività sulla quale si guadagna? Attualmente no, in quanto startup viene finanziata da venture capitalist e business angel. Esiste un modello di business, ma è rivolto al B2B, cioè alle aziende. Svilupperemo a breve servizi dedicati ad aziende di media grande dimensione, quindi per stimolare il carpooling all'interno delle aziende e fra aziende. Questi saranno servizi che offriremo a titolo oneroso, ovviamente. L'altro pianeta. Seconda parte della puntata, come promesso adesso parliamo di etichette alimentari, lo spunto ce lo dà una bufala, vedremo se bufala o no, che gira su Facebook in questi giorni, riguarda dei numeri stampati in rosso sulle confezioni di panna o besciamella a lunga conservazione, ma prima di arrivare a questo punto presentiamo la nostra ospite, Paola Testori-Coggi, direttore generale per la salute e consumatori della Commissione Europea, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Vorrei, direttore, che prima di tutto, prima di arrivare alla bufala, così teniamo un po' la... Io dico bufala, quindi ho già rivelato molto, anche troppo. Però, insomma, prima di arrivare a chiarire che cosa rappresentano questi numerini di cui tanto si discute in questi giorni su internet, noi dicessimo un po' che cosa ci deve essere sulle confezioni alimentari obbligatoriamente secondo la normativa europea. Poi ci si possono aggiungere altri dettagli, sempre senza truffare, no, ovviamente. Però che cosa c'è e che cosa ci deve essere su queste famigerate etichette? Voi avete anche una bellissima brochure che invito tutti a controllare poi su internet. È importante che le dica cosa deve esserci e cosa invece il produttore può mettere, perché ci sono alcune indicazioni o alcune informazioni che sono obbligatorie e queste riguardano il nome del prodotto, che deve dare un'indicazione chiara di cos'è il prodotto, la lista degli ingredienti, la presenza, se ci sono, di sostanze che creano allergie negli ingredienti e poi importante la data. Perché dico la data importante? Perché la data può essere espressa in 2 modi. Allora, quando il prodotto è un prodotto che si degrada, quindi un prodotto che dopo un certo periodo di tempo perde le sue requisiti igienici, che quindi può anche fare male, e qui si parla di carni, di uova, di latticini, la data è espressa con le parole da consumarsi entro. E in questo caso vuol dire che dopo questa data il prodotto non deve venire mangiato, perché dal punto di vista igienico non è più completamente sicuro. Un'altra cosa invece è la data che viene che segue le parole da consumarsi preferibilmente. Questo è per gli alimenti che in genere sono conservati a lungo, come i biscotti, i cereali, le paste, i risi, e cosa vuol dire? Che preferibilmente, ma se anche lo si consuma dopo, non è che il prodotto può avere, può creare dei problemi alla salute, ma soltanto che magari il prodotto ha perso la consistenza, o ha perso l'apparenza o il sapore, ma il prodotto rimane un prodotto sicuro. Quindi la differenza imparare tra... a distinguere tra l'una e l'altra cosa è fondamentale. Ecco. È fondamentale perché si evita anche a volte di buttare via dei prodotti invece che si possono mangiare. Che altro dobbiamo tenere sott'occhio? Abbiamo detto le date, sono fondamentali, poi la parte delle allergie. Quello che c'è è che deve venire indicato in maniera chiara il nome del fabbricante o se il prodotto è fatto all'estero, il nome dell'importatore, perché questo è quello a cui il consumatore deve rivolgersi in caso di reclamo o per ottenere ulteriori informazioni. Quei numeri che a volte possono essere presenti soprattutto sui pacchi di cartone, lei adesso citava questa campagna che sta girando sul web, quelli sono dei numeri industriali che non hanno niente a che vedere con il prodotto e noi ci siamo informati, quel caso di questi numeri rossi che si trovano su alcune confezioni, sono numeri che si riferiscono al tipo del cartone, al tipo di carta, al tipo di contenitore, non hanno niente a che vedere con il prodotto. Perché il prodotto, diciamola tutta questa leggenda metropolitana che appunto è una bufala, si allude in queste cose che si trovano, in queste informative che si trovano qua e là, al fatto che questi numeri in realtà celino una specie di ripastorizzazione, quindi prendere dei prodotti che stavano per scadere, rimetterli, riportarli alle industrie che poi li avrebbero rimpastati e di nuovo rinfilati nelle confezioni di panna, di besciamella, perché di questo tipo di prodotti stiamo parlando. Questo è assolutamente impossibile, insomma, direi. Questo è impossibile, posso rassicurare il consumatore. Quando un prodotto è stato messo sul mercato e ha una data, al di là di questa data, con la spiegazione che ho dato prima, il prodotto non può venire ritirato e poi, come dice lei, ripastorizzato e rimesso sul mercato. Non è possibile. Il prodotto, se la scadenza è una scadenza entro, il prodotto non viene mangiato o viene buttato via a livello del consumatore, o se ancora nei negozi, i negozi lo ritirano e lo distruggono. Quindi non c'è possibilità che ritorni sul mercato un prodotto scaduto. Quindi questi numeretti rossi si riferiscono al cartone nel quale è contenuto? Sì, sono dei numeri che vengono dati dall'industria dell'imballaggio, ma che non si riferiscono al prodotto. Perfetto. Tornando alle etichette, nella vostra stessa brochure c'è dettagliatamente anche un elenco di tutte queste E che noi vediamo. Queste a cosa si riferiscono? Queste E si riferiscono a quei prodotti che si chiamano additivi, che vengono aggiunti nei prodotti alimentari. Ecco, c'è da dire che quando un prodotto alimentare non è un prodotto fresco, ha sempre bisogno di avere degli additivi. Quindi il numero che in genere va da, è una E e va da 100 a 999, perché per categorie, per esempio tra 100 e 200 sono dei coloranti, cioè tra 100 e 199, tra 200 e 299 sono dei conservanti, quindi ogni centinaio indica una categoria. E questo deve rassicurare il consumatore, perché se c'è questo additivo vuol dire primo che il prodotto si conserverà nel tempo meglio e conserva le sue qualità, e secondo, questo additivo è stato oggetto di un esame e di un'autorizzazione prima di essere utilizzato, cioè non c'è niente che non è aggiunto, che non venga esaminato dal punto di vista di eventuali rischi, e se ci fosse anche idea di un rischio, l'additivo non viene autorizzato, quindi sono prodotti sicuri che servono per conservare il prodotto e per assicurarne la durata nel tempo. Dunque, mi veniva in mente, mentre lei diceva questo, se le normative nazionali possono essere ancora più stringenti rispetto a quella europea, oppure sono conformi e pari, rispetto a questa? In Europa, nei 28 paesi dell'Unione Europea, le normative che regolano i prodotti sono le stesse, perché il prodotto alimentare circola in Europa, noi abbiamo un mercato interno, ormai molti dei prodotti che noi troviamo sono fatti anche in altri paesi europei, addirittura noi italiani siamo dei grandi esportatori di prodotti, quindi c'è questo mercato interno, è un vantaggio per noi, per la nostra industria, e tutte le regole devono essere armonizzate, altrimenti non ci potrebbe essere questo mercato interno. A questo proposito, un'altra cosa interessante per i consumatori è l'origine, perché dell'origine spesso si discute, cioè abbiamo diritto, vogliamo sapere qual è l'origine dei nostri alimenti che mangiamo. Allora, ci sono alcune categorie di prodotto, soprattutto i prodotti freschi, per cui è obbligatorio indicare l'origine, e questi sono la frutta, la verdura, la carne bovina, perché per ora l'obbligo è soltanto sulla carne, diciamo, di manzo, la carne bovina, le uova, l'olio di oliva extravergine, il miele, il vino, cioè il vino ha sempre l'origine. E c'è a volte una domanda dei consumatori di averlo anche per altri prodotti, e quindi per questo adesso noi stiamo vedendo come estendere l'obbligo, e una prima, diciamo, allargamento dell'obbligo dell'origine avverrà adesso tra pochi mesi, perché si estende a tutte le altre carni fresche, mentre adesso detto è soltanto la carne bovina. L'obbligo di origine verrà indicato anche per la carne di pollo, di maiale, diciamo ovina e caprina, quindi per tutte le categorie di carne verrà esteso l'obbligo, ma sempre se la carne è fresca. Quando la carne invece è una carne conservata o che si trova in altri prodotti, per esempio un sandwich col prosciutto, in quel caso è un prodotto trasformato e quindi non viene indicato. Perché nei prodotti trasformati non viene indicato? Perché sarebbe molto complesso indicare l'origine di tutti gli ingredienti. Quando abbiamo un prodotto trasformato abbiamo l'ingrediente principale, poi a volte c'è il sale, c'è lo zucchero, ci sono insomma vari ingredienti. Sarebbe veramente un costo non giustificato, ma bisogna rassicurare il consumatore che il produttore che mette sul mercato, lui sa esattamente da dove ha preso il suo ingrediente, quindi si può ricostruire la tracciabilità passo passo, senza però avere in etichetta l'origine di tutti gli ingredienti. Un po' come è successo l'anno scorso quando ci fu quello scandalo, no, della carne di cavallo, cioè una volta scoperto si è riusciti a risalire la catena, perché Certo, nel giro di 24 ore noi siamo riusciti a scoprire da dove veniva questa carne che si trovava nei ravioli, però è chiaro che nei ravioli non c'era scritto la farina proviene da, la carne proviene da, e tutti gli ingredienti, perché come ho detto sarebbe un costo che non si giustifica, ma la tracciabilità in Europa nel campo alimentare c'è per tutti gli ingredienti. La ringrazio molto Paola Testoricoggi, ricordo, direttore generale per la salute e consumatori della Commissione Europea. A risentirci. Grazie, arrivederci. È tutto per questa puntata, ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora.